Vabbè, continuiamo. Col pomeriggio, beh, con due grandi amici della Valle di Susa, uno come Serge, vabbè, che lo ricordo perché non c'era questa mattina, è stato uno degli ideatori, insieme a Rita della libreria Città del Sole e ad altri amici della Valle, che un po' di anni fa ci siamo visti e abbiamo detto tra le tante lotte, tra le tante barricate che facciamo, perché non ne facciamo anche una di libri. E così è nata un po' l'idea di una montagna di libri, nata nel 2012, in questi anni che si è sempre sviluppata in Valle. Quest'anno abbiamo provato a fare un po' questa scommessa insieme agli amici e compagni di Carmilla di dire Edel Valle, che ringraziamo ancora per l'ospitalità e per l'accoglienza che ci ha fatto, di fare appunto questa iniziativa, insomma, che rientra un po' nel nostro slogan, portare la Valle in città, e quindi portare anche un po' le nostre idee, la nostra cultura. Avete sentito prima sull'amianto, insomma, ci ha seguito un po' la giornata, ha visto i vari temi che poi continueranno anche domattina. Beh, oggi pomeriggio non sta a me presentarli, credo che tutti conoscete sia Sergio Guadruppanì che Valerio Evangelisti, due amici, due compagni, che nei loro libri credo pongano anche sempre delle questioni che vanno un po' al di là, insomma, del romanzo, ma invece tutta una serie di questioni sociali, eccetera, ma direi che adesso io passo il microfono a loro, mi tolgo dai piedi e vediamo un po' come immaginare le lotte. Bene, veramente io e Serge non sappiamo cosa dire. Però poi dopo comincia a parlare. Cercheremo di trovare modo di intrattenervi. Questo intervento si intitola Letteratura, immaginario e cultura di opposizione. Come è nato? È nato dal fatto che mi è stato chiesto via email di dare un nome a questo intervento. Non avendo idea, ho semplicemente riprodotto la testata del sito online Carmilla, infatti questo è sotto il titolo, e credo che questo sia un non era solo un espediente per risparmiare tempo e immaginazione, ma in qualche modo l'itinerario di quel sito riflette quello che forse vi aspettate di sentire da noi. Vale a dire, io e Sergio abbiamo un percorso, lui mi smentirà se sono impreciso, abbiamo un percorso più o meno simile, cioè noi eravamo dei militanti prima di essere scrittori, non è stato l'inverso né è stato parallelo, ci occupavamo d'altro, in un modo, lui è molto più estremista di me, è un estremista della Madonna, questo qua. Ci occupavamo d'altro e a un certo punto abbiamo fatto una svolta. Questa svolta non è stata, per esempio nel mio caso, non è stata mia individuale. Carmilla, che adesso è un sito online, prima di chiamarsi Carmilla si chiamava Progetto Memoria, rivista di storia dell'antagonismo sociale, ed era una rivista militante della fine degli anni 80 e dei primi anni 90. Durante la Pantera, vendevamo, Pantera rivolta studentesca del 1990-91, durante la Pantera noi vendevamo di quel giornale anche 1500-2000 copie. L'ultimo numero uscito è vendete 36 in tutta Italia di copie. E pensavamo che qualcosa non andava, si sforse questo sospetto, e però non è che volessimo mollare il discorso che facevamo. Ora era successo che nel frattempo, ma molto di recente, la mia vita aveva preso un'altra piega, mi ero messo a scrivere romanzi fantastici e cose del genere, trovando immediatamente un ascolto enorme. Allora io mi dissi e proposi agli altri redattori di Progetto Memoria, perché non usiamo un linguaggio completamente diverso da quello del passato, vale a dire usiamo lo strumento letterario per portare avanti tesi politiche, vediamo come funziona. E così fu, ci furono dei drammi, ci fu chi non ne voleva sapere, altri che invece furono entusiasti della cosa, reclutammo gente che poteva essere più o meno interessata al nostro discorso ed uscì così Carmilla Cartazza. Non la prima versione fancy, ma la prima versione distribuita in libreria era dedicata, guarda caso, a Sole Baleno. Che Baleno erano due militanti notav che finirono in prigione con un fatto tragico, insomma. Il fatto che noi confondessimo in qualche modo narrativa di genere e politica, questioni strettamente politiche, fece un certo rumore. Io poi venivo dal campo della narrativa fantastica, ero classificato autore di fantascienza. In quel campo lì c'era un predominio totale della destra culturale, e poi però la massa non era abituata, non metteva in relazione ciò che leggeva con qualche tesi di fondo. Certo, una gran parte della narrativa fantascientifica era critica verso la società, ma lo era in modo estremamente metaforico. E dunque, quella che causammo noi fu una sorpresa. Per me non fu una sorpresa, cioè non fu un fatto traumatico fare questa scelta, oltre che per le ragioni di convenienza che dicevo, per una questione precisa, che io frequentavo da molto tempo la Francia, andavo in Francia, e mi interessavo ai fenomeni che accadevano là. Un fenomeno era particolarmente interessante su tutti gli altri, vale a dire che c'era una parte, non della fantascienza, anche di quella, ma una parte della letteratura noir, chiamata noir o polar, che in realtà già svolgeva un discorso politico molto netto. Il capostipite, se vogliamo, colui che più fece con coscienza e determinazione questa decisione fu Jean-Patrick Manchette, che poi ebbe dei seguaci che proseguirono bene o male la stessa strada. Manchette, che era un carattere difficile, detestava quasi tutti i suoi colleghi, no? Detestava molta parte, soprattutto quelli che cercavano più spudoratamente di imitarlo. Io ho un grosso volume con la raccolta delle critiche letterarie di Manchette, e Manchette dice, cioè, lette tutte, se andava bene, diceva questo è mediocre, no? Oppure questo ma cosa scrivo a fare? Con un'eccezione, Rue de la Cloche, di un autore, un giovane autore, di nome Serge Quadrupagny, l'unico che Manchette abbia mai lodato in vita sua. Ebbene, quindi modo di conoscerlo, e ne nacque una certa quale amicizia che si è prolungata fino ad oggi. Adesso io cedo subito la parola e continuo la storia del settore quadrupanino. Allora, cerchiamo di non fare i vecchi rincoloniti che raccontano la loro vita. Anche anche perché prima c'è una signora venuta e mi ha detto, e lei Alberto Cunetti? Ho visto nei suoi occhi che era molto deluso, e qualcuno mi aveva detto che era un bel ragazzo, qualcuno mi ha visto. No, io vorrei, quello che vi può interessare è anche, per me non è che la che prima ero militante e dopo ho deciso di essere scrittore. Io avevo 16 anni nel 78 e poi mi sono trovato in un ambiente dove era ovvio che non avevo mai lavorato, che la rivoluzione era alle porte e dunque non c'era, fino a 30 anni non ho fatto nessun lavoro confessabile. Ma poi l'unico, quando pensavo a quello che mi sarebbe piaciuto di fare se fosse diventato grande, cioè un po' rassegnato al fatto che la rivoluzione non era per domani mattina, era di scrivere. Non avevo mai avuto voglia di fare altro. Dunque, verso 30 anni, quando ho cominciato a pensare che forse dovevamo aspettare ancora un po', ho cominciato a scrivere i libri e uno dei primi libri che ho scritto non era un romanzo, era un libro che si chiamava L'antiterrorisme en France, cioè l'antiterrorisme in Francia. Parlava di un argomento su cui sono tornato poco fa con un altro libro, cioè la strumentalizzazione della paura, pubblicato 2 anni fa, La politica della paura, che è molto più estesa. Questo primo libro era sull'utilizzo della strumentalizzazione della paura del terrorismo, come cosa che voi italiani avete un argomento che avete molto molto approfondito anche in pratica, e scrivendo questo libro io mi sentivo insoddisfatto perché con gli strumenti dell'indagine, gli strumenti diciamo del giornalismo, io quando vedo certe notizie su di me scrivono che sono scrittore, editore e giornalista. Quando vedo giornalista mi vengono i nervi perché non riesco mai a accettare l'idea che sono giornalista, perché forse potete capire che ogni tanto con i giornalisti ce l'abbiamo anche in Val di Susa. E dunque tutto questo mi sto prendendo del stampo alla lacrima. Dunque, scrivendo questo libro mi sono accorto che con gli strumenti dell'indagine e anche forse della teoria non riuscivo a fare anche capire, a trasmettere anche le cose importanti che mi sembravano molto importanti a fare capire. E dunque ho avuto voglia di scrivere un romanzo, e questo è Epsilon in greco, il mio primo roman noir, che è stato nutrito da tutta questa indagine. E poi dopo c'è stato Rue de la Croce, c'è stata una trilogia. E dunque per me quello che è importante è di capire che il lavoro sull'immaginario è un lavoro fondamentale, che non è, io non vedo, non ho l'idea di una letteratura al servizio di una causa. Per me la letteratura in se stessa ha la sua dignità, come tutti gli arti, non ha la sua necessità in se stesso, non ha bisogno di qualcuno che viene e che dice questo è il senso che devi avere, ma comunque attraverso la letteratura puoi fare passare un cambiamento. Per esempio, negli ultimi romanzi che ho fatto, ho creato un personaggio di donna che non è che era un pur una reazione, me ne sono accorto dopo, non è che l'ho deciso, ma era una reazione all'immagine della donna che c'era la televisione italiana, queste ragazze di Zanude che sono sempre prese in giro da cretini in completo, vecchiotto in completo, e le trattano da cretini. E ho voluto creare un personaggio di donna che sia nello stesso tempo non molto giovane, che non sia che non corrisponda ai canoni della donna secondo il gusto berlusconiano, che non è solo di Berlusconi, mi dispiace per me, il berlusconismo lo sappiamo bene che è anche molto diffuso a sinistra, e poi che sia anche una donna sensuale a cui piace dire che anche chi ama i piaceri della vita. E dunque, facendo questo, per me, dopo ho pensato questo, anche questo è un gesto politico, è un modo di fare politica. E rispondendo al mio libro, c'è stata una manifestazione di centinaia di migliaia di donne a Milano. Scherzo, ma mi ha fatto piacere di vedere che c'è stata comunque una reazione a questa epoca. Dunque, questo per dire che per me non dobbiamo mai avere una visione. Io non ho fatto lo scrittore perché non potevo più fare il militante. Io faccio sempre un sacco di cose, adesso corro molto meno velocemente, dunque ci sono delle cose che non posso più permettermi di fare. Ma sono con il mio cuore, con i ragazzi, e dunque ecco. Bene, rimanendo sulla questione narrativa o letteratura, impegno politico, di recente mi è capitato questo episodio. Mi ha scritto una ragazza di Roma dicendo che avevano ospiti Paco Ignacio Taibo, Henry De Luca e mi sembra che Cucci e qualcun altro, si riunivano a sostegno di Henry De Luca, e mi diceva questa: io sono scandalizzata dal silenzio sul caso Henry De Luca di tanti scrittori, tra cui tu. Ho risposto cordialmente, nei limiti del possibile, dicendo questo, cioè, se per esempio c'era un libretto dedicato a cura di Bifo e del mio amico Valerio Monteventi, che si intitola Cosa fare? Come si fa a lottare, cioè i giorni nostri, eccetera, che comprende vari capitoli, quello scritto da me si chiama Il sabotaggio. A questo punto che cosa volete più? Cioè, diciamo che a me fanno meno caso, no? Perché sono meno conosciuto. Comunque, venendo però, il problema che veniva sollevato da questa ragazza era autentico, cioè vale a dire che l'impegno, il cosiddetto impegno degli autori mainstream, quelli in voga, è qualcosa di estremamente oscillante, dubbio e casuale. Direi che in Italia riguarda un numero minimo di persone, tra cui i Luming e tutta una serie di altri che spesso anche scrivono su Carmilla, ma la maggior parte, secondo me, è poco identificabile come una collettività. Da fuori si può pensare che sia così, che ad esempio gli scrittori siano tutti affratellati fra di loro, che facciano parte di un unico complesso. In passato sono esistite, ma parlo degli anni 60, 70, sono esistite delle scuole, delle correnti, oggi non c'è più nulla di tutto questo, anche perché il mercato non è più quello di una volta. Il veicolo principale, perché a me non faranno niente sul sabotaggio e Aereo De Luca sì, perché io non vado in televisione, cioè, questo non per criticare Aereo De Luca che ci va, ma perché qua si diventa scrittori veramente famosi, accettati come personaggi di primo piano, essenzialmente attraverso la televisione. Allora è tutta una lotta per riuscire ad andare da Fabio Fazio, come Fabiano altri, a farsi intervistare. Io a suo tempo fui interpellato, per esempio, da Maurizio Costanzo Sciù. Mi chiamò non Maurizio Costanzo, ma una sua collaboratrice che mi disse se potevo essere interessato a partecipare a Maurizio Costanzo Sciù. Io risposi letteralmente così, sì, per pisciare sul palco, no? E lì finirono i contatti. Però un mio amico che è seriamente politicamente impegnato, in effetti, ma forse resiste meno a certe lusinghe, un amico, Loriano Machiavelli, accettò nello stesso periodo di andarsi al Maurizio Costanzo Show. Dopodiché quasi non fu interpellato, venne lasciato lì in un angolo, perché non era uno showman in realtà lui, era uno con delle idee vere, e questo è merce proibita oggi. Chi è che è ritenuto impegnato agli occhi, non so, c'è un famoso scrittore che un mio famoso collega, sarebbe un collega, io veramente ho qualche dubbio, comunque, che anni fa si prostrò davanti a Veltroni quasi in ginocchio a cantarne le lodi, e questo era imbarazzato, Veltroni era imbarazzato, disse come, tu Mimi devi parlare con me e mi vieni a fare questa sbrodolata, questo dimostrava con gli occhi, anche se poi, e di recente si è segnalato per andare alla Leopolda, la cosiddetta Leopolda, dopo aver cambiato cavallo, cioè un mezzo morto Veltroni e l'altro invece è vivo e lotta insieme a me. Ecco, quello è il tipico intellettuale impegnato di oggi, si tratta di Baricco. Del resto, considerate una cosa, che probabilmente le recensioni all'ultimo romanzo di Veltroni, che penso che nessuno abbia letto, sì, forse neanche lui, non si sa neanche se l'ha scritto. Comunque le recensioni grondavano, era tutti i programmi televisivi tutte le ore, come Bruno Vespa, era recensione, poi dove uno ha scritto che c'erano delle parti deboli, ma di quelle che ho letto io, e tutti gli altri parlavano di capolavoro. Eugenio Scalza riscrive un romanzo del cazzo che nessuno comprerebbe neanche costretto con la forza, no? E quello viene recensito ovunque, e lui viene chiamato a parlare di letteratura. In televisione poi l'ho udito anche dire: io non sono di quelli che fanno letteratura popolare, io faccio letteratura e basta. Ecco, se questa è la massa, ma non è la massa, ci sono anche personaggi diversi, però quello che prevale è un qualunquismo totale, diciamo. Se quella è la massa, degli intellettuali di oggi, cioè se quanto più intellettuali quanto meno lo si è, allora io dico che a un certo punto la domanda che mi rivolgeva inizialmente la studentessa, perché non prendi posizione per un altro scrittore? Io posso prendere posizione per un altro uomo, un'altra persona, un altro militante, combattente, come è in certa misura almeno De Luca, ma non per lui come scrittore. Chi me frega di essere scrittore? Cioè, io faccio il mio mestiere, lui fa il suo, non ci somigliamo, ci ritroviamo nel momento veramente unificante in cui esprimiamo idee analoghe su un certo tema. Tutto il resto, tutto il resto francamente non mi interessa. E detto questo, vorrei sapere la situazione francese. Di cosa? Se mi permetti, io vorrei tornare su una cosa che a me mi pare fondamentale: il lavoro sul campo dell'immaginario, la lotta sul campo dell'immaginario e anche sul campo delle parole, il senso delle parole, sul campo dell'immaginario, perché io vedo il mondo così com'è e vedo che quasi tutti, non solo in Italia, ma in Francia, se vai in un bistrot e ti dice tutti i politicanti fanno schifo, tutti, sì, sì, è vero, la società è una società di merda, sì, sì, è vero, stiamo andando verso la catastrofe, stiamo andando verso la fine del mondo con l'inquinamento, il buco dell'atmosfera, tutto questo, sì, sì, è vero. Cambiamo la società. Ah, questo no, c'è qualcosa che blocca. E per me c'è un blocco dell'immaginario. Abbiamo bisogno di ricominciare a immaginare che un'altra società è possibile. E per poter immaginarlo, non è che dobbiamo fare discorsi o soltanto discorsi, dobbiamo anche creare una nuova sensibilità, perché l'altra società non uscirà soltanto di discorsi, uscirà di una sensibilità diversa che si è costituita e che vedo per esempio in Val di Susa. C'è un libro molto bello di uno storico inglese che si chiama Edward P. Thompson, The Making of the Working Class, in francese la formation della classe ouvrière, che è un mattone così, ma che è appassionante, affascinante, perché racconta come partendo di cose molto piccole, delle canzoni, delle vidage, perché ha fatto un lavoro immane, e si parla del Settecento, come la classe operaia si è formata, e si è autoformata, si è autoprodotta, usando vecchie canzoni, vecchie usanze, come modi di resistere, creando nuove cose, usando il vecchio per creare il nuovo, e creare tutta una sensibilità, una controcultura, e questo che è sparito oggi, e questo che bisognerebbe ricreare. E secondo me il lavoro su questo campo che ci aspetta tutti, non soltanto quelli che sono, si sono autodichiarati scrittori, è fondamentale. Ma noi come scrittori possiamo avere il nostro ruolo, anche la nostra parte, anche lavorando sul senso delle parole. Parlavo poco fa del fatto che ormai in Francia, se vuoi che parli della Francia, si usa molto la parola les extrémistes, gli estremisti, cioè tutti gli estremisti sono sia di sinistra sia di destra. Ma come mai? Per me non è per niente la stessa cosa. Io sono estremista, non di destra. E questo fa una bella differenza. Io sono estremista nel senso che non penso che bisogna essere radicali. Anche la parola radicale ormai è diventata un insulto. Non essere troppo radicale, ma sì, bisogna essere molto radicale. Bisogna attaccare le cose alla radice. Dunque... per questo che anche lì è anche per esempio del populismo, i populismi vuol dire populismo di sinistra, populismo di destra. Populismo di sinistra vuol dire rifiutare i diktat della politica, eccetera. Già sei un estremista, sei un populista, e dunque questo è il modo anche di fare che non puoi più fare un'opposizione reale senza essere trattato come un fascista, perché sappiamo che gli estremi si toccano, ma toccate voi, vi toccate tra di voi, ma noi non ci tocchiamo. Come andare avanti? Io penso che quello che è stato non si ricostituirà. No, è inutile pensare ad un ritorno pari pari a situazioni precedenti, però diciamo che determinati filoni che sono stati costitutivi di parte del movimento genericamente antagonista, ma potremmo parlare anche di movimento operaio, dalle origini ad oggi. Le origini stanno un po' lì, nella rivoluzione francese, stanno anche prima di altri episodi. Certi filoni si sono ogni tanto riprodotti in forme diverse e rischiano invece oggi di essere parecchio in crisi e di morire veramente. Mi spiego. Filoni che rischiano di morire. Io in uno dei molti dei vari libri pubblicati da Valerio Monteventi, che continuo a citare perché scrive più libri di me praticamente, pubblicati a cura di c'è un bellissimo libro, bellissimo, con delle critiche, ma in gran parte riuscitissimo, sulla storia dei centri sociali a Bologna, che si chiama La Berretta Rossa. E cosa scrivevo io nell'introduzione a questo libro? Dicevo che degli slogan famosi e universali nati con la rivoluzione francese, Liberté, Égalité, erano stati praticati, ma il movimento operaio o prima ancora repubblicano e democratico tendeva sempre a dimenticare la fraternità, che invece era un punto fondamentale del discorso rivoluzionario francese di allora. Voi considerate quanto sono stati importanti per esempio i circoli, le case del popolo, cioè non solo le sedi politiche, le sedi, le sessioni di partito, eccetera, ma anche tutta la vita che c'era attorno. Non a caso, tra i bersagli degli squadristi all'inizio dell'affermazione del fascismo, le case del popolo venivano quasi per prime. Venivano incendiate soprattutto quelle, le scuole popolari, le biblioteche, eccetera, tutto quello che costituiva società. Dopodiché il circolo socialista, comunista, anarchico, repubblicano venne distrutto alla fine, ma prima veniva fatto il vuoto attorno con la distruzione della linfa del movimento. Ora, parlando prima con una persona, si diceva del movimento del 77 di cosa aveva di peculiare, no? Il movimento del 77 aveva di peculiare che, pur avendo tante anime, tanti filoni, tante tendenze, pur essendo suddiviso in collettivi, eccetera, era però il movimento, caratterizzato da una cosa, oltre a non avere un nome vero e proprio, caratterizzato dal fatto che implicava una specie di vita comune. Il movimento era Piazza Verdi, erano i luoghi di aggregazione, essenzialmente, e lì in mezzo sparivano lotta continua, le vecchie sigle, e sparivano anche le nuove sigle, perché quello che prendeva corpo era una specie di sostanza umana. Quella sostanza oggi non è presente come allora, e questo qualsiasi militante dei movimenti odierni lo può dire. E tante volte, per esempio, andando a parlare all'università, mi è capitato di gente curiosa proprio di questo risvolto della vita, dell'antagonismo del passato, risvolto perduto dappertutto, no, non dappertutto. E qua vengo a una cosa decisiva. Intanto ringrazio i militanti notari di essere venuti qua. Di essere venuti qua perché è una cosa che ci mobilita. Io parlo non solo di me stesso, dei miei amici, di Carmilla o del Vague 61 che ha avuto la generosità di offrirci locali, e non solo i locali, ma anche la partecipazione e un'amicizia di vecchia data. Ringrazio i notar per essere, perché è diverso notar dagli altri, perché è qualcosa di particolare che altri non hanno. Ci sono stati anche dei movimenti importanti di altro tipo, ce ne sono tuttora, se uno va a vedere nelle varie fonti di informazione online cos'è successo oggi, no? Leggete 50 eventi in tutta Italia, a volte con partecipazione anche massiccia. Però cos'è di diverso il tal? Che è una società che si muove, è una società intera, una comunità. E questo la rende praticamente, non dico invincibile, perché nessuno è invincibile, però la rende piuttosto inossidabile, almeno come anima interna, cioè possono massacrare, piegare, ma non riescono a estirpare la loro umanità. Bene o male, il paragone è del tutto improprio e prendetelo per perfezionale, meno male, come diceva un amico, Valerio Bistardi, uno c'era qua, dice, meno male gli ex 77 hanno rotto i coglioni al governo per 10 anni, gli hanno reso quasi impossibile fare le cose, eccetera. Cose che oggi si fanno in un minuto, cioè. perché? Perché c'era quell'anima lì, poi andò persa, eh. Ma quello che mi meraviglia appunto del... Io vado a vedere tutti quei filmatini che vengono messi online, perché intanto mi piacciono i posti, no? Danno l'impressione di grande solennità, salvo le parti rovinate. Poi attenti che ve le rovineranno altre, perché quelli quando cominciano stanno a fare terra bruciata attorno a loro. Mi piacciono i posti, ma mi piacciono le persone. Quando si vedono questi cortei con ragazzini, ragazzine, vegliardi, uno che chiaramente è il matto del paese, cioè si vede, un altro è il prete, forse il maestro elementare, cioè, quello è la montagna che si muove, appunto, che era poi un termine maoista, no, anzi era ghevariano ai suoi tempi, della montagna che si muoveva. Allora, bene, siamo contenti che sia venuta da noi e la prossima volta vedremo anche noi di seguire, nel mio caso personale non l'ho sicuro, ma di sicuro ogni volta che ci sarà bisogno contate sui compagni di Bologna che stanno sfigatissimi, ma invece vogliono dire anche loro un passato di nipoti, diciamo. Io finisco qua, se Sergio vuol dire le ultime due parole, dopodiché ci diamo il posto alle cose serie. Io avrei tante cose da dire, ma sai che siamo fastitori, dunque c'è un punto in cui il racconto arriva e così altro, se aggiungi qualcos'altro cade, dunque a questo punto lascerò la parola a voi, ma se devo ringraziare anche tutta l'assemblea e anche perché mi avete mandato a cercare un uomo che è venuto a cercarmi alla stazione, che si chiama Sante. A me questo nome Sante, io mi ricordavo di uno che si chiamava Sante, e perché ha scritto un libro che è stato molto importante per me, che ha raccontato la sua storia e che mi ha fatto capire un sacco di cose sull'Italia. Quando non parlavo ancora l'italiano così splendidamente che lo parlo adesso, che mi ha fatto capire un sacco di cose e poi che mi ha dato una spinta, che per me, per esempio, è un'illustrazione della forza del racconto, del fatto di narrare, di saper raccontare le storie. E dunque poi mi avete mandato questo personaggio con la sua canguro che non si neanche ciao sono Sante e poi sono arrivati qui, poi mi hanno detto ma lui è Sante non sta amico.